Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera e benvenuti a Smart City. Rilevare i sismi tramite l'infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica è l'obiettivo del progetto Meglio, avviato da Open Fiber in collaborazione con Pangea Formazione, l'INGV, quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e Metallurgia Bresciana SPA. Di tutto questo, di questa prospettiva, parliamo con Davide Calonico, ricercatore dell'INRIM, che è già stato ormai diverse volte nostro ospite, al quale do il benvenuto. Buonasera, buonasera Davide. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, Davide Calonico, l'idea di fondo è che la rete in fibra ottica esistente, oltre a fare il suo lavoro, cioè trasmettere dati, possa funzionare come una specie di rete di sensori distribuita efficace per il monitoraggio dei terremoti, e questo in alternativa alle normali reti di, e tradizionali reti di sismografi. Allora, intanto, come funziona? Qual è il principio di base che vi permette di fare questo lavoro? Allora, quello che facciamo, mandiamo una luce ultrastabile, quindi una radiazione laser a 1550 nanometri, che è la lunghezza d'onda tipica anche delle comunicazioni dati, la mandiamo in fibra e sostanzialmente questa luce così stabile misura la lunghezza della fibra. Un evento sismico chiaramente arriva e arriva anche sulla fibra ottica, e quindi la tira, la streccia. Quest'onda sismica allunga e accorcia la fibra ritmicamente più o meno, no? Esattamente, è proprio come un'onda, l'allunga e l'accorcia, e questo si vede sulla fase ultrastabile del laser, e noi siamo in grado di rivelare queste variazioni fino a variazioni anche infinitesime dell'ordine di un micrometro, quindi un millesimo di millimetro. E l'aspetto più innovativo è che voi riuscite a fare questo lavoro senza rompere le scatole alla trasmissione dati, fondamentalmente, no? Sì, questa è una delle specificità di questa tecnica, che è una tecnica coerente interferometrica, ce ne sono anche altre, ma noi conviviamo in modo, diciamo, pacifico con il traffico dati, né il traffico dati dà a noi fastidio, né appunto il traffico in sé, né tutta l'infrastruttura necessaria fatta di amplificatori sulla rete ottica, e questo è un vantaggio importante, certo, anche per operatori come Open Fiber, che magari desiderano testare, provare un nuovo servizio sulla propria infrastruttura già fatta per altri motivi. Allora, quali sono i vantaggi di questo approccio rispetto all'utilizzo tradizionale di una rete di sismografi? Allora, nel progetto innanzitutto andiamo a vedere appunto la complementarietà tra questi sensori, che sono sensori che funzionano in modo molto diverso. Il sensore tradizionale è puntuale, invece quello in fibra è distribuito. Quello che vogliamo andare a vedere insieme ai colleghi dell'Istituto di Vulcanologia e di Sismologia è qual è la sensibilità massima che riusciamo a raggiungere, cioè qual è il più piccolo sisma che riusciamo a vedere. E questo è per vedere se riusciamo magari a migliorare la sensibilità della rete tradizionale. Una seconda opportunità è di vedere, essendo il sensore in modo naturale su una rete dati, se possiamo comunicare a un centro di controllo in modo assai rapido quando avviene un evento. E poi, essendo, come dicevo, due sensori completamente diversi, allora ci aspettiamo, o meglio, speriamo di vedere delle informazioni che i sensori tradizionali non colgono. In questo la nostra tecnica ha bisogno dei sismologi che possano un po' scavare nei dati estratto da chi fa data analytics, in questo caso appunto Pangea Formazione, e ci possa appunto segnalare un'eventuale informazione in più. Per esempio movimenti molto lenti, no? Che i sismografi tradizionali normalmente hanno problemi con dei movimenti molto lenti, che quindi non sono dei veri e propri terremoti. Allora, i movimenti molto lenti ci interessano sia perché appunto non sono degli eventi, come dire, puntuali e improvvisi. La nostra tecnica in fibra potenzialmente è in grado di vederli e monitorarli nel tempo. e inoltre si sviluppano sia su ambienti diciamo terrestri che sottomarini, e anche lì è molto interessante perché in ambiente sottomarino la rete di sismografi tradizionali è molto rarefatta, ce ne sono molto pochi sul fondali per tutta una serie di problemi. Beh, invece certo. Di rete ottica per dati sui fondali marini ce n'è veramente tanta, ce n'è più di 1 milione di chilometri tra i vari continenti, e sarebbe bello poter utilizzarla per fare anche un network sismologico che vada a rivelare sia i sismi minori, sia per esempio appunto questi movimenti delle tettoniche o altri movimenti che sono immanenti ma che non danno un fenomeno sismico vero e proprio. Quale sarà il primo step del progetto? Quali realisticamente i successivi? Allora, innanzitutto sceglieremo un cavo della rete Open Fiber dove installare 2 sensori che andiamo a costruire, e da lì andiamo a vedere i segnali che riusciamo a ottenere, analizzarli con i sismologi e con chi fa data analytics e vedere la massima sensibilità. Poi vediamo se scalare ad altri cavi in modo da affinare anche il posizionamento della rivelazione sismica come epicentro, profondità, e vedere se si può crescere in una rete integrata magari su tutta la rete di telecomunicazioni. State pensando di applicare questo paradigma anche ad altri tipi di misurazioni? Ma in alcune dimostrazioni iniziali abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare un elettrodotto, e per esempio dove c'era una fibra ottica, e per esempio lì si sono viste delle chiare firme dell'effetto delle variazioni di carico sul trasporto della potenza elettrica. Potrebbe essere quindi un sensore distribuito che va a provare, a monitorare la qualità di questa distribuzione. Oppure, tornando ai fondali e al mare, anche la rivelazione e quello che si chiama early warning per gli tsunami potrebbe certo. essere una prospettiva interessante. E allora grazie come sempre Davide Calonico. Grazie a voi, buona serata. È tutto cari ascoltatori, appuntamento domani, buona serata anche da parte mia.